resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nel quartiere via vai di pantere. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nel quartiere via vai di pantere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Apri gli occhi, pochi sbocchi per chi vive una menzogna, non distingue falso e vero e ci si infogna. Quello che sogna non è quello che vede, se soggiorno porta rogna, punta su quello che viene. Inesorabilmente passano i giorni tra la gente indifferente che non nota i contorni. Le strade che di notte non ci torni, certe botte non le scordi, ti affollano i ricordi, ripopano più forti che mai. Click boom, un flash su quello che fai, da solo nella via, solo con la volante della polizia. I fari negli occhi, certi affari ti riprometti che non li tocchi, ma poi ci abbocchi, ti scotti, ti blocchi e ti fotti. Non ti ascolti e adesso conti morti. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Ti spiego, è una vita che non prego per chi si danna l'anima spingendosi all'estremo, spingendo in vena, facendo il pieno. Ma è più facile se non sa come mi chiamo. 15 anni, i pomeriggi tra i palazzi, tra smazzi di pezzi, dei motorini verniciati grezzi, impennate come pazzi, e va tutto bene fino a quando scherzi sono cazzi. Se ti viene in testa il pallino del soldo in tasca o della scarpa giusta, se trovi soluzioni nella busta, nello scudo di un booster, quello che più frusta. Corse pazze per la city, per portare la roba ai fighetti rivestiti nelle feste. Prestazioni più richieste, da qui ad affari più grossi è stato presto, non serviva più un pretesto. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Forse adesso troppo sicuro di sé, aveva sputtanato il nome, tutti sanno chi è. Era un pesce piccolo, agli sbirri non gli frega, tanto già c'era. Chi li teneva a bada non la paga, ma quella fuori busta o nella busta che sequestra. C'è da fidarsi che la prassi è questa. Fatto sta che si allontanava sempre più velocemente, ora girava in macchina pure senza patente, ma con i soldi la cosa più importante. Poi arriva l'istante che ti cambia la vita, una paletta in vista, appeso al collo in mitra. Rimase di pietra prima di accelerare, di certo quei coglioni non lo potevano fermare. Forse il posto di blocco e dopo senti un colpo, un altro ancora, la macchina che sbande. Allora resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Scende dalla macchina spalmata sul lampione, barcolla per la strada fatto come un coglione. Grida verso gli sbirri parole senza senso, lì vicino tutti svegli, lì ci ritrova in mezzo. Gli sbirri gli rigridano, mani sulla testa, svelto anche la destra. Una sua mossa lesta e boom boom, un colpo dritto in testa. Io abbasso le luci e chiudo la finestra perché resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere. Resto, resto solo nella stanza, luci soffuse, sento le sirene in lontananza, tutte le sere nei quartieri mi avrei di mantenere. Ma se non apri gli occhi non c'è un cazzo da vedere.